come le ha detto, lei è più bella che intelligente. E oggi l'Unità mette in prima pagina la foto di Berlusconi col titolo "Più bello che innocente". E c'è un'intervista a Rosy Bindi, all'interno "Le donne dicano basta". Ha raccolto la solidarietà di molti. "Più bella che intelligente, come si è sentita?" "Beh, mi è toccata questa volgarità perché ho osato interromperlo", dice Rosy Bindi, "contraddire le sue gravi affermazioni contro Napolitano e la Consulta. Per la prima volta è stato interrotto un suo monologo in TV". E poi ancora, Berlusconi ha mostrato il rapporto distorto che ha con le donne e col potere. Infine, l'accusa di Rosy Bindi è molto sottile a Bruno Vespa, perché dice Rosy Bindi: "Una cosa voglio chiederla io a Bruno Vespa. Come mai Berlusconi è intervenuto durante una trasmissione registrata? Lo ha avvisato qualcuno di quello che stavamo dicendo, oppure Berlusconi controlla tutto in bassa frequenza?" Addirittura, "Sta dicendo che c'è un grande fratello", chiede Maria Zegarelli a Rosy Bindi. "Sto dicendo che Berlusconi sapeva quello che stava accadendo in studio". E poi Rosy Bindi chiude: "Ora le scuse Berlusconi le deve presentare a tutte le donne, non a me". In primo piano. Voglio prendere in mano il Sole 24 Ore per parlare di temi più economici, anche se c'è da dire che c'è un ampio spazio, vertice al Quirinale, ora lealtà, anche in prima pagina sul Sole 24 Ore, ma l'apertura in realtà è "Asia in soccorso del mini dollaro", con Trichet che dice "cambi troppo volatili, più coordinamento". Ed è interessante quello che trovate in prima pagina, l'editoriale di Marco Fortis, su come si misura il benessere. "All'ombra del PIL c'è un'Italia che può sorridere", questo è il titolo. "Molti continuano a misurare la gravità della crisi mondiale, il suo impatto sulle diverse economie nazionali unicamente in termini di caduta del PIL", scrive Fortis. "Ma il PIL non soltanto fatica sempre più a riflettere il livello di benessere dei sistemi economici, come ha ribadito il rapporto della commissione Stiglitz-Sen-Fitoussi, ma si rivela anche sempre più inadatto a cogliere le sfaccettature di una recessione mondiale in cui i paesi in realtà si dividono, a nostro avviso piuttosto chiaramente, in malati gravi e altri meno gravi. Peccato però che secondo il termometro convenzionale del PIL tra i primi vi siano il Giappone, la Germania e l'Italia, e tra i secondi gli Stati Uniti, la Spagna e la Gran Bretagna, mentre è vero esattamente il contrario. È del tutto evidente, infatti, che la più forte caduta del PIL in Giappone, Germania e Italia dipende principalmente dalla temporanea paralisi del commercio mondiale". Insomma, scrive Fortis, non il PIL, ma altri dovrebbero essere in questo momento gli indicatori più corretti per comparare il reale grado di gravità della crisi. Ad esempio, l'aumento della disoccupazione o la caduta dei consumi e della ricchezza netta delle famiglie. Un editoriale molto interessante si sviluppa all'interno sul termometro della crisi. L'Italia corre più veloce del PIL, appunto l'Italia al 22° posto per prodotto interno, ma all'8° per ricchezza netta pro capite. Dunque si chiede Fortis, forse è il caso di rivedere i parametri per capire qual è lo stato della crisi nei vari paesi. Sempre sul Sole 24 Ore trovate un'interessante intervista di Daniele Lepido all'amministratore delegato di Telecom Italia, Franco Bernabé. Bernabé che risponde alle accuse che gli sono state fatte un po' dai competitor, gli operatori alternativi, nei giorni scorsi, sulle accuse di monopolio. "Nessun monopolio nelle telecomunicazioni", questo è il titolo dell'intervista. Dice Bernabé: "La quota di mercato di Telecom Italia nell'accesso non è pari all'80%, ma al 74%, dato di giugno 2009. Questo valore non è assolutamente un'anomalia italiana. In Europa siamo allineati o addirittura al di sotto, per esempio, di France Telecom, che è al 79%, o di Telefonica, che è al 75%. E dice appunto Bernabé: "Bisogna guardare a queste realtà geografiche che interessano maggiormente gli operatori alternativi". Ancora la domanda: "Vi accusano di continuare a fare offerte commerciali non replicabili degli altri. È fin troppo banale replicare che Telecom non può farlo", dice Bernabé, "perché tutte le nostre offerte sono preventivamente verificate dall'autorità". Insomma, Bernabé in questa intervista che trovate nella prima pagina di Economia e Imprese, nell'inserto Economia e Imprese, un'intera pagina, respinge le accuse di monopolio nelle telecomunicazioni per quel che riguarda Telecom. Vogliamo andare in Francia. Perché in Francia? La trovate su tutti i giornali, io la voglio leggere nella cronaca di Domenico Quirico sulla Stampa, perché a mio avviso è una delle penne più interessanti del giornalismo italiano. Domenico Quirico scrive della vicenda dello scandalo che sta travolgendo il ministro della cultura Frédéric Mitterrand. "La Francia scopre il turismo sessuale di Mitterrand. Bufera sul ministro della cultura di Sarkozy. Perché? Beh, sentite, il guaio, scrive Quirico, è che questa volta non è una licenza poetica, estro e capriccio della fantasia narrativa. Frédéric Mitterrand è uscito 4 anni fa con un libro, 190.000 copie, ben scritto, e giù a dargli dell'illustrissimo delle patrie lettere i critici a questo tetrarca così noiosamente mediocre. Nel libro è evocata l'infanzia felice del futuro ministro della cultura e l'affermazione orgogliosa della sua omosessualità. Poi però poche righe dionisiache, il racconto di un viaggio in Thailandia. Ho preso l'abitudine di pagare dei ragazzi. Certo, ho letto quello che è stato scritto sul commercio dei ragazzi di qua. So che c'è del vero, la miseria ovunque, la prostituzione generalizzata, le montagne di denaro che rende quanto ai ragazzi non arrivano che le briciole. Ma questo non mi impedisce di ritornarci. Tutti questi riti di fiera, di efebi, di mercato di schiavi mi eccitano enormemente. Anche il più angelico dei lettori costringerebbe questa prosa in una orribile sintesi. Turismo sessuale. Per 4 anni nessuno glielo ha rimproverato. Lo hanno nominato ministro della cultura per ipocrisia, per autocensura verso il potente, l'intellettuale. E bel colpo quello di Marine Le Pen. A ricordarlo, colpo che squinterna e spacca. La figlia del leader del Fronte Nazionale era invitata a una trasmissione televisiva sui crimini sessuali e dopo aver invocato castrazione obbligatoria con l'aria lesta e sorniona, ha aperto il libro di Mitterrand e ha cominciato a leggere. Voilà, il vaso era scoperchiato. E dunque, dopo aver riportato alla luce quello che in realtà Mitterrand aveva scritto già da 4 anni, scrive Domenico Quirico, insomma è scoppiata la bufera ovviamente su il ministro della cultura, che appunto racconta di come abitudine è quella di andare sua in Thailandia a pagare dei ragazzi. Torniamo in Italia solo per segnalare tutta la vicenda che trovate ovviamente non solo sulla Gazzetta dello Sport ma ovunque, di Cannavaro. Avete sentito in GR Sport una vicenda forse anche solo di sguidi, di raccomandate non arrivate, di raccomandate non spedite. Cannavaro, capitano della Juventus e della Nazionale, si ritrova in una vicenda di doping perché è stato punto da una vespa, ha usato un cortisonico a base, insomma, una cosa proibita, è stata segnalata però al CONI, ma che ne so, la lettera è arrivata, non è arrivata, insomma una vicenda un po' di lettere, di carte, più un disguido più che una vicenda di doping vero e proprio. Se la caverà senza squalifica, scrive La Stampa, ma certo una vicenda un po' antipatica quando si parla di doping e di calcio. Ci fermiamo qui. Ricordo il sondaggio che potete votare su radio24.it e il sole24ore.com. Vi chiediamo: secondo voi Berlusconi è perseguitato dalla magistratura? 24 mattino. Sono le 8:17, ben ritrovati a 24 mattino, è il momento di dare spazio all'economia. Soldi e dintorni. Eccoci qua, oggi c'è con noi Valentina Furlanetto. Valentina, sì, buongiorno Alessandro, buongiorno agli ascoltatori. Oggi Alessandro parliamo di parole. Autocalisse, lo sai cosa significa? Oddio, subito in difficoltà, no. Beccato. Prestiti ninja. Oddio, boss napping. I ninja sono quei guerrieri. Insomma, non lo sai. Vabbè. No, niente. Allora domani mattina potrai acquistare in edicola il nuovo libro del Sole 24 Ore, disponibile con il quotidiano anche per tutto il mese a un prezzo di 5,90 euro in aggiunta a quello del quotidiano, e si intitola Il nuovo ABC dell'economia, le 300 parole per capire che cosa cambia dopo la grande crisi. Alessandro, in realtà già stamattina sul sito del Sole 24 Ore puoi fare un test. Quanto conosci dell'economia? Sì, viste le premesse, lo puoi fare così, vedremo. Testeremo. Abbiamo in collegamento, per parlare appunto di parole della crisi, di parole dell'economia, il caporedattore centrale del Sole 24 Ore e coordinatore del nuovo libro, Marco Mariani. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Allora, dicevamo appunto già questa mattina sul sito del Sole 24 Ore si può fare un semplice test, un test anche simpatico per capire quanto si è digiuni o quanto si sa di queste nuove parole. Perché Marco Mariani, in realtà la crisi ci ha portato a conoscere dei neologismi, è così? Diciamo che la crisi ha portato alla ribalta, all'attualità, una grande quantità di nuove parole, di sigle, di acronimi, anche di concetti tradizionali dell'economia, ma che hanno dovuto essere in queste circostanze eccezionali completamente ripensati. Con alcuni di questi concetti abbiamo ormai in parte familiarità, con altri ci siamo spesso abituati a sentirli ma senza coglierne bene il significato. Pensiamo, che so, ad azzardo morale, a rischio sistemico, cattura dei regolatori. Sono tutti concetti chiave che esprimono aspetti fondamentali della crisi e dei tentativi che si fanno per superarla e che spesso sfuggono a una nostra comprensione diretta. Prima mi suggerivi una divisione in tre fasi della crisi e tre fasi anche linguistiche, cioè l'inizio, quindi subprime, alcune parole che forse sono entrate di più in questo momento nel nostro vocabolario, poi quelle degli interventi pubblici e infine questa famosa exit strategy e le altre parole che stanno accompagnando forse l'uscita dalla crisi, speriamo almeno. Sì, diciamo che la prima fase è quella delle parole che indicano che cosa è successo, chi sono i responsabili della crisi, quali sono le cause, e quindi parole come l'effetto leva, i mutui ninja o subprime di cui parlavate voi. La seconda fase è quella degli interventi pubblici o delle banche centrali, quindi i cosiddetti piani di stimolo, gli ammortizzatori, gli stabilizzatori automatici. Tutte queste parole un po' difficili, ma che in realtà sono anche poi, una volta individuate, danno una chiave di lettura. L'ultimo momento è quello dell'uscita della crisi, la fase che ci si augura sia in corso adesso, in cui la nuova parola chiave, la parola d'ordine potrebbe essere quella dell'exit strategy, cioè un tentativo da parte dei governi e delle banche centrali di ridurre tutti gli interventi eccezionali fatti finora sul piano della riduzione dei tassi o dell'indebitamento pubblico, ma che comporta grandi problemi, a molti fa venire i brividi, perché se non si azzeccano i tempi giusti nell'uscita dalla crisi si rischiano di fare guasti ancora peggiori. Allora cerchiamo di, visto che gli ascoltatori saranno curiosi sul significato di alcune di queste parole che abbiamo pronunciato, anche ad esempio questi prestiti ninja, già la terza volta che lo citiamo, magari spieghiamo che cos'è. Sì, è un termine americano per indicare una delle mosse più rischiose che è stata fatta dalle banche americane durante la crisi, quella cioè di affidare dei prestiti a delle famiglie, che è un acronimo che indica famiglie che non hanno redditi, quindi no income, no job, non hanno lavoro e no asset, cioè non hanno nessun patrimonio, non hanno nulla, eppure venivano caricati di grossi indebitamenti che poi hanno innescato quella reazione a catena che ha portato alla crisi. Il boss napping l'abbiamo citato prima, invece quell'infelice pratica del prendere in ostaggio i manager di società per rivendicare dei diritti, soprattutto in Francia e in Belgio, è così? Questa è una brutta parola, una brutta pratica che sarebbe meglio dimenticarsela, che nasce per un adattamento a questi contesti di conflittualità sociale di una vecchia parola inglese che era kidnapping, che indica rapimento. Quasi tutte queste parole sono mutuate dall'inglese. Buona parte di questo, viviamo in un mondo globalizzato in cui l'inglese è una lingua quasi universale. Abbiamo anche tentato in alcuni casi di tradurle in italiano. Sì, però ci sono dei tentativi anche un po' buffi, come quello di CRIFI. Con questo è un altro neologismo che circola negli Stati Uniti, FICRAI o FICRAI, che stava un acronimo per indicare financial crisis. Noi abbiamo tentato di adattarlo in italiano proponendo un CRIFI che suona un po' buffo, ma forse efficace. Da dove nasce l'esigenza di questo libro? Cioè le persone sono disorientate di fronte ai nuovi termini? Ma diciamo che, come si sta cercando di mettere ordine nell'economia, nei mercati finanziari, nelle politiche dei governi e delle banche, ecco, noi dopo 2 anni di crisi tumultuosa abbiamo cercato di mettere ordine nelle parole, di fornire ai nostri lettori le chiavi di accesso per essere più partecipi di queste grandi trasformazioni che stanno avvenendo soprattutto su scala globale. Ci sono poi dei termini tecnici che hanno tenuto compagnia ai risparmiatori durante questi ultimi mesi, forse sono anche i termini che interessano di più agli ascoltatori di questa trasmissione. Abbiamo parlato dei subprime, poi ci sono anche i CDO, no? Sì, parliamo, sono tutti prodotti che appartengono alla tipologia della finanza strutturata, cioè di quei meccanismi con cui dei prodotti o degli elementi finanziari di base, ad esempio i mutui, sono stati poi moltiplicati tutta una serie di in una catena successiva di prodotti, in gergo si dice impacchettati e distribuiti sul mercato, col risultato che chi li aveva emessi aveva allontanato inizialmente da sé il rischio, salvo poi moltiplicarlo in modo esponenziale per tutte le situazioni. Ecco, i CDO sono una tipologia di obbligazioni legata proprio a questo contesto. Quali sono, secondo te, per il risparmiatore i termini, proprio uno o due termini che è necessario conoscere? Ma il termine principale che esprime molti aspetti della crisi e che poi può essere declinato in tante situazioni è quello di rischio. La crisi ha dimostrato che c'era una assunzione spropositata di rischi su scala complessiva, tanto da parte delle grandi banche d'affari quanto da parte del piccolo risparmiatore. È una lezione vecchia dell'economia, quella di non assumere rischi eccessivi, di non indebitarsi troppo, ma si è rivelata ancora attuare. Una delle parole d'ordine adesso all'uscita della crisi è una ulteriore declinazione di rischio, si parla di rischio sistemico, cioè creare dei meccanismi che impediscano il verificarsi di una situazione analoga in cui le difficoltà di alcune situazioni finanziarie come delle onde urte o sismi si trasmettano a tutto il sistema creando un collasso globale. È una guida secondo te accessibile anche ai più semplici risparmiatori? Il nostro obiettivo è proprio quello, cioè quello di rendere tutti partecipi di una situazione che coinvolge tutti come lavoratori, come investitori, come risparmiatori, come uomini d'impresa e fornire a ciascuno le chiavi di lettura per essere più consapevoli di quello che sta avvenendo e delle trasformazioni che incontreremo. Grazie a Marco Mariani, caporedattore centrale del Sole 24 Ore, coordinatore, lo ricordiamo, del libro Il nuovo ABC dell'economia, che trovate domani in edicola. Ne so già qualcosa di più. Allora, Salvadanaio oggi, Valentina. Sì, oggi parliamo di beni rifugio. So che con Deborah ieri è stato affrontato il tema oro. Oggi parliamo di opere d'arte. Alle 8:33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Le notizie in primo piano sono queste. Di momenti difficili ne ho passati tanti, supereremo anche questo. Così il capo dello Stato Napolitano dopo gli attacchi del premier Berlusconi per la bocciatura del lodo Alfano. E poco fa Berlusconi ha rilasciato un'intervista al TG5 e ha ribadito: nessuno è super partes, Napolitano è di sinistra. E poi ha detto: non c'è bisogno di manifestazioni di piazza, sono stato eletto dal popolo. 3 milioni di persone sono sotto la soglia di povertà alimentare in Italia, secondo una ricerca presentata dal Banco Alimentare e dalla Fondazione per la Sussidiarietà. Una famiglia di due persone, viene considerata alimentarmente povera se ha una spesa media mensile in cibi e bevande inferiore a 222 euro, una condizione nella quale si trovano oltre 1 milione di famiglie. Infine, per il calcio, il capitano della Juventus Fabio Cannavaro è stato trovato positivo a un controllo antidoping dopo la partita Roma-Juventus. I bianconeri minimizzano, si tratta di un antiallergico iniettato dopo una puntura di Vespa e regolarmente denunciato. Alla richiesta del certificato medico del CONI non fu però data risposta e da qui il controllo e la positività. E dunque alle 8:34 minuti siamo pronti per il sondaggio di oggi. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Allora, la domanda che vi vogliamo fare è molto secca. Secondo voi Berlusconi è perseguitato dalla magistratura? Ovviamente dopo il lodo Alfano avete assistito alle polemiche, prima anche durante la rassegna stampa abbiamo letto insomma delle tensioni, delle frizioni, anche di riforma della giustizia che si profila all'orizzonte. Tanto per capire, vogliamo partire da un audio. Siamo andati un po' a ripescare negli archivi, ci sono stati negli anni diversi interventi, diversi alti e bassi nel rapporto tra Berlusconi e la magistratura o parte della magistratura. Abbiamo ripescato, per esempio, come, diciamo, come summa del momento, forse delle dichiarazioni più forti. Lo ricorderete? 25 giugno 2008, l'Assemblea di Confesercenti. Sentiamo cosa disse Berlusconi. Sapete come sono costretto a passare il sabato mattina normalmente da quando sono sceso in campo in politica? Lo passo con i miei legali a preparare le due o tre udienze in cui sono oggetto delle attenzioni dei PM e dei giudici ideologicizzati che sono una metastasi della nostra democrazia. Vi do soltanto due dati. Sapete dal 94 al 2006 quanti PM e magistrati si sono interessati di Silvio Berlusconi? Al 2006 sono 789 PM e magistrati che si sono interessati del politico Berlusconi con il fine di sovvertire il voto degli italiani. Ci sono riusciti nel 94, non ci riusciranno in questa presente situazione. Non possiamo accettare che un ordine dello Stato pretenda di calpestare questo diritto cambiando chi è al governo con accuse folli ed infondate. Questo Berlusconi nel giugno 2008. Ieri Franco Bechis su Libero riportava i dati aggiornati. 109 processi, 2500 udienze, 530 perquisizioni e acquisizioni di documenti della Guardia di Finanza, 200 milioni di euro spesi per la propria difesa. Questi numeri, diceva Bechis, raccontano la storia giudiziaria non di Totò Riina ma di Silvio Berlusconi. Saluto il sottosegretario Alfredo Mantovano agli interni, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, senatore. E tra l'altro magistrato, le chiedo subito, visti questi numeri, Berlusconi è un perseguitato dalla magistratura, secondo lei? Beh, a questi numeri ne manca uno, quello relativo alle condanne che ha subito Berlusconi. Poiché questo numero è pari a zero, credo che la conclusione sia facile da trarre da parte di chiunque. Credo che ogni persona di buon senso e di senso pratico, al di là dei toni più o meno aspri che forse sono comprensibili nel diretto interessato, possa constatare diciamo una attenzione quasi monomaniacale che inizia nel momento in cui l'attuale Presidente del Consiglio decide di iniziare l'esperienza politica. In precedenza vi era stato nel confronto con la magistratura ciò che accade normalmente a un grosso imprenditore, un contenzioso soprattutto civile, delle transazioni, ma non questa moltiplicazione di attenzioni che in certi casi ha veramente dell'irrazionale. Credo che tutti siano consapevoli che il Presidente del Consiglio per 6 anni è stato indagato, cioè iscritto nel registro degli indagati come presunto mandante delle stragi mafiose. Ci sono 2 decreti di archiviazione che su conforme richiesta dei pubblici ministeri dicono che non esiste nulla a fondamento di questa ipotesi, ma che per 6 anni l'autorità giudiziaria italiana, che pure diciamo, ha di cose di cui interessarsi, si sia dedicata a sentire decine e decine di testimoni per costruire un'ipotesi del genere che poi è frenata miseramente, credo che sia il segnale più evidente, insieme con quei numeri che lei ricordava, sì, di un'attenzione spropositata e forse non mirata esclusivamente a fini di senatore politica. Qualcuno dice ieri avevamo qui Di Pietro, dice non ci sono state delle sentenze, è vero, non ci sono state condanne, alcune sono state in prescrizione perché Berlusconi si è sottratto dalla situazione di imputato anche con diverse leggi ad persona, ma con i lodo che poi sono stati bocciati in questi anni. Guarda, io posso anche capire che per strumentali esigenze di partito all'onorevole Di Pietro dispiace molto che Berlusconi non sia stato condannato, però se non è stato condannato è perché è stata applicata la legge voluta dal Parlamento, eletto dal popolo. Io voglio salutare anche Fabio Roia, buongiorno magistrato. Fabio Roia, componente del Consiglio Superiore della Magistratura, quel Consiglio Superiore da cui ieri il vicepresidente Mancino ha detto, credo, un attacco di una rozzezza, di rozzo insomma, quello di Berlusconi in questi giorni. Senta, lei tra l'altro magistrato che ha una lunga storia della Procura di Milano, ieri mi ha molto colpito sentire l'avvocato Ghedini ad anno zero a dire, alla domanda, ma rinuncerebbe alla prescrizione per il caso Mills a Milano? Alla prescrizione non si rinuncia mai a Milano, come dire, in quella procura se si può prescrivere è sempre meglio. Dottor Roia. Sì, e beh, devo dire che questa frase ha colpito anche a me, perché fa parte, secondo me, di un malcostume generale della politica italiana ed in genere del mondo di dialogare delle istituzioni. Perché si tende a creare una sottocultura dell'amico e del nemico, che non fa bene, direi, non fa bene all'igiene comune delle istituzioni, nel senso che se si continua a alimentare la cultura reciproca del sospetto verso la magistratura, verso altre istituzioni, verso la politica, io penso che da questa situazione di grande confusione, di grande stress istituzionale non se ne può uscire. Io credo che, con riferimento ai dati che citava lei, anche qui è un po' un artificio retorico, perché è vero che si sono occupati molti magistrati, 789 mi pare citasse il Presidente sì. del Consiglio in quel poco elegante intervento Confindustria, però attenzione, perché le difese del Presidente del Consiglio sono molto aggressive, sono molto forti, e quindi per esempio in un processo se vengono istruite e vengono adite tutte le fasi incidentali, noi per esempio su un decreto di sequestro normalmente abbiamo 3 giudici del Tribunale del Riesame che si pronunciano e poi 3 un collegio della Cassazione, e così sulle istanze di ricusazione di un giudice c'è una Corte d'Appello formata da 3 giudici e poi c'è ancora la Corte di Cassazione, quindi voglio dire, probabilmente è la sommatoria di diverse fasi del processo in cui si pronunciano una molteplicità di giudici. Voglio dire, fare un'altra considerazione, noi abbiamo un sistema per cui vige il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, tutte le vicende del Presidente del Consiglio riguardano direi quasi esclusivamente la sua attività imprenditoriale o comunque legata ad un'attività di natura privata che nulla hanno a che vedere con le funzioni che sta svolgendo dal 1994 ed oggi, quindi riguardano, come dire, tutto un aspetto privato della sua vita. Da questo punto di vista mi pare che sia doveroso e non scandaloso occuparsi di queste vicende laddove vi è un'ipotesi di reato che obbliga a procedere, poi la fisiologia del processo molte volte ha portato all'assoluzione, molte volte alla prescrizione, perché è arrivato prima la tagliola del tempo piuttosto che la decisione. Ho capito, lei dice le questioni diciamo private legate all'imprenditore Berlusconi, anche se oggi è interessante, se leggerete Guido Krainz, storico sul Corriere, dice insomma, in un paese in cui mai è stata così forte forse la mescolanza tra politica, aziende, tra affari pubblici, privati, legislazione generale, norme ad persona, ma lo leggo da Guido Krainz, forse poi tutto si mischia. Io però vorrei tornare dal sottosegretario Mantovano, perché si legge in questi giorni sui giornali, anche tra l'altro in modo veramente molto duro, secondo me sbagliato, questa parola vendetta, cioè si confonde l'idea di riforme della giustizia che sono state rilanciate anche oggi dal ministro Alfano in un'intervista al Corriere della Sera, e però subito si chiede cosa volete, la vendetta nei confronti dei magistrati? Sottosegretario, che vuol dire, che cosa si profila per il governo, secondo lei cosa bisogna fare per riformare la giustizia, che però non sembri e non sia colta come una vendetta nei confronti della magistratura? Il termine vendetta è incompatibile col termine riforme, e che vi sia necessità di riforme credo sia condiviso da tutti, poi il problema è capire quali. Vi è sicuramente un problema di efficienza che chiama in causa meccanismi di snellimento dei processi, spesso si concentra l'attenzione soltanto sui processi penali, varrebbe la pena di capire perché ci sono lentezze inenarrabili soprattutto nei giudizi civili e nelle controversie di lavoro che chiamano in causa la sopravvivenza quotidiana. Ma il nodo della riforma è questo meccanismo di autotutela della magistratura costituito dal CSM, che è andato molto al di là rispetto ai compiti che gli ha assegnato la Costituzione. Credo che uno dei punti sui quali si lavorerà è lo strumento di verifica disciplinare della condotta dei magistrati. È inammissibile che, come accade e come è accaduto finora, il magistrato a cui sia rivolto un addebito disciplinare debba essere giudicato da persone che ha concorso a eleggere, cioè da componente del CSM, sulla base di criteri. E chi lo dovrebbe giudicare? Cioè... Ecco, guarda, c'è una proposta che viene da diverse parti politiche, ne ricordo una per esempio del presidente Violante, che immagina una corte di giustizia che non abbia criteri elettivi sindacali correntizi di composizione, ma sia composta per esempio da ex presidenti della Corte Costituzionale, da ex presidenti delle Camere, e che con criteri formali di imparzialità e con un codice deontologico ovviamente ancora più rigoroso rispetto a quello attuale, si occupi senza essere condizionato dal fatto questo è della tale corrente e quindi va assolto perché ieri abbiamo prosciolto quello della corrente contrapposta, sì, e così via. Sì, insomma, la questione delle correnti in magistratura. Devo fermarmi e andare al traffico. Intanto voglio salutare il professor Alessandro Pace, che ci ha raggiunto. Professore, buongiorno. Buongiorno. Il presidente dell'Associazione dei Costituzionalisti Italiani. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Siete già in migliaia che state votando sul sito radio24.it alla domanda: Berlusconi secondo voi è un perseguitato dalla magistratura? Bisogna dire che al momento il 51% dice di sì, quindi insomma siete divisi in due. E un piccolo audio, 10 secondi, Berlusconi, sentiamo. Mio padre diceva una cosa che vi dico, ma sì, ve la dico. Diceva che se uno nasce col piacere di fare il male ha tre scelte: può fare il delinquente, o il PM, o il dentista. I dentisti si sono emancipati e adesso esiste l'anestesia. E allora, se i dentisti se la sono cavata, rimangono il delinquente e il PM, se uno ha piacere di fare il male. Professor Pace, eccoci qua, sì. Buongiorno, presidente dell'Associazione dei Costituzionalisti Italiani. Uno che io ho letto, è stato sentito anche dalla nostra Raffaella Calandra, l'avete sentito nei giorni scorsi. Sì. Io invece recupero anche un'intervista alla Stampa in cui lei dice: io dal 1981 che... posso dire inseguo Berlusconi? Posso... No, ma si figuri, inseguirlo. Io inseguo Berlusconi. Però io ha incrociato... Faccio l'avvocato, ho vari clienti, soprattutto mi sono occupato di materia televisiva e quindi accadeva che gli interessi contrapposti qualche volta erano quelli di Berlusconi, sì. Ma io non ho nessun animo. Però ha incrociato, diciamo, Berlusconi nel 94, legge Mammì. Ormai è difficile non incrociare Berlusconi, e non solo in materia radiotelevisiva, pensa a quante settori copre. 94 legge Mammì, 2002 lodo legge Maccanico, 2004 lodo Schifani, è andato anche alla Consulta per il lodo Alfano, ma non hanno accettato la sua. Però lei dice: mi sento come nell'Iliade, che vuol dire? Cosa? Mi sento come un guerriero dell'Iliade. Ma questa è una sciocchezza che io ho detto una cosa che ho riportato anche l'altro giorno in un'altra intervista. Queste battaglie radiotelevisive così importanti, in cui sono così condizionate dalla politica, davano a me l'impressione non solo dell'Iliade, ma dell'Odissea, nella quale si svolgono due vicende, un piano terreno, quello degli umani, e un piano degli dèi. Io mi muovevo sul piano degli umani come un modesto avvocato che doveva difendere gli interessi dei suoi clienti. Magari alcune volte andava bene, alcune altre volte andava male, ma anche quando andava bene, e poi si muovevano gli dèi, e quindi le vittorie sul terreno potevano essere ribaltate. Però... questo è un significato estremamente... lì è stato un giornalista, ci ha fatto lì questa giornalista. Sì, perché l'ho visto, se non mi sbaglio, riportato dal Messaggero. Dalla stampa. Ma io l'ho visto sul Messaggero. Ah, sul Messaggero. Le chiedo però, Libero ha detto: la Procura di Milano, sapete chi ha mandato alla Consulta, perché poi non è stato accettato per il lodo Alfano, l'ex avvocato di De Benedetti. Lei è stato anche l'avvocato di De Benedetti. Ecco, questo mi fa piacere, questa domanda, sì. Perché io stavo per fare una richiesta di rettifica, in questa maniera mi toglie l'imbarazzo e la noia di fare una cosa simile. Io non conosco De Benedetti, ho assistito la CIR nel solo giudizio di legittimità costituzionale che poi è terminato con la incostituzionalità della legge Schifani. È stato così perché il precedente collegio difensivo, costituito da Giuliano Pisapia e da Roberto Mastroianni, ha avuto la bontà, in quanto costituzionalista, di chiedere la mia collaborazione. Punto e basta. Mm. Per quanto riguarda la Procura di Milano, non c'è che poi l'affermazione oltraggiosa per la Procura di Milano più che per me. La Procura di Milano si è rivolta a me non perché avvocato del CIR, che non sono, ma perché io avevo difeso la Procura di Milano in precedenza in un caso altrettanto famoso, Abu Omar. Sì. E quindi il procuratore di Milano è lo stesso, probabilmente ha ritenuto che avessi le capacità per sostenere questa tesi e perciò ho avuto l'incarico. Sono due cose diverse, c'è stata fatta una dietrologia estremamente importante e anche... Lei ha precisato, ha avuto modo di precisare qui, le chiedo, secondo lei Berlusconi è un perseguitato dalla magistratura? Magari se si vuole lasciare un attimo da parte il suo ruolo istituzionale, dire ma il suo certo, parere... Io sono sempre sincero, non mi sembra che siano, ci sono stati dei fatti extrafunzionali che sono stati perseguiti. Io non, quello che dà l'impressione negativa, mi si consente, Berlusconi, è che non si difende nel processo, ma si difende dal processo. Però Mantovano dice non è mai stato condanne zero migliaia. Certo, perché se lei vede il percorso normativo giudiziario di Berlusconi, lei trova legge sull'erogatoria, legge sul falso in bilancio, la legge Cirielli sulla diminuzione della prescrizione, sono tutte leggi o generali che però di cui lui beneficiano, ma che portano uno sconquasso nel nostro ordinamento giuridico, pensi alla legge sull'erogatoria o soprattutto quella sul falso in bilancio, oppure sono leggi vere e proprie personali. Lei dice non si difende all'interno del processo. Io mi lascio andare, dottor Roia, vuole replicare a Mantovana, sottosegretario, quello che ha detto una delle riforme, per esempio quella di non far giudicare da membri del CSM gli altri magistrati, magari della stessa corrente poi. Ma guardi, io sulla riforma della sezione disciplinare sono d'accordo, nel senso che la staccherei dalla funzione amministrativa del Consiglio. Il problema è che quel disegno di legge proposto dall'onorevole Violante prevede la stessa composizione della Corte Costituzionale con gli stessi criteri di nomina. Per cui, vista le recenti critiche sulla Corte Costituzionale, io temo, è quello che dicevo prima, che se non si esce da questa cultura generalizzata del pregiudizio e del preconcetto, qualsiasi organismo, in qualsiasi modo sia composto, qualora emetta una sentenza non gradita, verrà sempre criticato e dietrologizzato. Mi sembra che non sia accettabile. Lei è questa dei dentisti, insomma, dentisti. Mi sembra così sgradevole e fa male, devo dire, all'Italia, perché un Presidente del Consiglio che delegittima una sua istituzione del Paese che governa, mi sembra una cosa così rattristante per i cittadini prima che per i magistrati. Però sappiamo, insomma, il personaggio è anche così, fa queste dichiarazioni molto spesso, dice vi racconto barzellette o aneddoti. Io in ogni caso mi devo fermare qui. Certo, la frase era forte, l'abbiamo ripescata, l'abbiamo voluta proporre perché era molto efficace nella sua durezza. Ci fermiamo, devo ringraziare il sottosegretario Alfredo Mantovano, sottosegretario degli interni, il consigliere del CSM Fabio Roia e il professor Alessandro Pace, che presiede l'Associazione dei Costituzionalisti Italiani. Votate sul sito radio24.it, in home page trovate in basso a destra bianco o nero la domanda: Berlusconi secondo voi è perseguitato dai giudici? Al momento 50% sì e 50 no sulla radio, mentre sul Sole devo dire vincono i no per il momento, cioè non è perseguitato, 67%. A tra poco, alle 13 risultati, e non ci vediamo, ci sentiamo lunedì mattina alle 7:30, grazie.